L'improperio è un rimprovero molto forte. Egli lo utilizza a guisa di medicamento, dicendo per bocca di Isaia: «Guai alla nazione peccatrice, ai figli iniqui, al popolo pieno di crimini, generazione perversa». E per mezzo di Giovanni dice nel Vangelo: «Serpi, razza di vipere». L'atto di accusa è un rimprovero rivolto a chi ha commesso ingiustizia. A questa pedagogia egli ricorre tramite David quando dice: «Un popolo che non conoscevo mi ha servito e mi ha prestato ascolto obbediente. I figli invece, come stranieri, mi hanno tradito e sono andati zoppicando fuori dai loro sentieri». E per bocca di Geremia: «Io le ho consegnato il libello di ripudio, ma Giuda, fedifraga, non ha avuto alcun timore». E ancora: «La casa di Israele mi ha respinto e la casa di Giuda ha tradito il Signore». La querela è un rimprovero velato. Anch'essa, senza che ci se ne accorga, ci conduce con sapiente aiuto verso la salvezza. Egli la utilizza in Geremia: «Come siede solitaria la città che era piena di gente, è divenuta come una vedova. Colei che comandava a tutte le regioni è ora ridotta a pagare i tributi e piange ogni notte». Lo scherno è un rimprovero che schernisce. Il divino pedagogo ci aiuta con questo strumento quando dice per bocca di Geremia: «Ti è venuto un volto da prostituta e ti sei svergognata davanti a tutti. E non mi hai chiamato a casa me, padre e signore della tua fanciullezza?» E poi: «Prostituta bella e avvenente, esperta in farmaci e pozioni». Così, con molta abilità, dapprima insulta la Vergine chiamandola prostituta, ma poi, facendola vergognare, la richiama alla sua dignità. La rampogna è un biasimo legittimo, oppure un biasimo verso i figli che si ribellano contro i giusti doveri. Di questa pedagogia si serve per mezzo di Mosè quando dice: «Figli indegni, generazione sleale e tortuosa, è così che avete ricambiato il Signore? Questo è un popolo stolto e insipiente. Non è forse questo il padre che ti ha acquistato?» E per bocca di Isaia dice: «I tuoi governanti disobbediscono, sono compagni dei ladroni, amano i doni, inseguono le ricompense e non fanno giustizia agli orfani». È per amore che Dio ci rimprovera ed è per guarirci che ci sferza. In generale, quindi, il suo sapiente ricorso al timore è per noi fonte di salvezza e il volerci salvare è segno della sua bontà. La misericordia del Signore è su ogni creatura, rimprovera, corregge e istruisce, come fa un pastore con il suo gregge. Ha pietà di coloro che accolgono la sua correzione e che si affrettano di aderire a lui. Servendosi di questo metodo, egli custodì, con la misericordia e con la correzione, i 600.000 uomini a piedi che erano tutti radunati nella durezza del loro cuore. Li sferzò, ebbe pietà di loro, li colpì, li guarì. Come infatti è grande la sua misericordia, tale è anche il suo castigo. È bene, invero, non peccare affatto, ma è anche cosa buona che il peccatore si penta e si converta, proprio come la cosa migliore è stare sempre in salute, ma è bene anche guarire dalla malattia. Pertanto dichiara per bocca di Salomone: «Batti tuo figlio con la verga e libera la sua anima dalla morte». E ancora: «Non risparmiare la correzione al fanciullo, raddrizzalo con la verga e non morirà». La condanna e il rimprovero, epiplexis, infatti, con il loro stesso nome fa intendere, sono delle percosse, plegai, per l'anima. Disciplinano i peccati, allontanano la morte e conducono alla temperanza coloro che si erano lasciati andare alla licenziosità. Anche Platone, riconoscendo la grande efficacia della correzione e vedendo nel rimprovero un eccellente mezzo di purificazione, sostiene, conformemente al Logos, che chi è macchiato di più grandi impurità è divenuto incorreggibile e vergognoso per il fatto di non essere stato rimproverato, mentre chi era destinato alla vera felicità avrebbe dovuto essere sommamente puro e bello. Del resto, se le autorità non sono da temere quando si compie il bene, come potrà Dio, che per natura è buono, essere temuto da chi non ha peccato? Ma se compi il male, abbi timore, dice l'Apostolo. È per questo che il medesimo Apostolo rampogna ad una le chiese, seguendo l'esempio del Signore, e scrivendo ai Galati, dice, consapevole della sua libertà e autorevolezza e della debolezza dei suoi ascoltatori, «Sono divenuto un nemico per voi perché vi ho detto la verità. Come i sani non hanno bisogno del medico finché sono in forze, mentre i malati necessitano della sua arte, così noi, che nella vita siamo malati a causa di indecenti concupiscenze, di riprovevoli intemperanze e di altre varie infiammazioni dovute alle passioni, abbiamo bisogno del Salvatore, il quale non ci applicherà solo farmaci dolci, ma anche altri aspri. Infatti, le radici amare del timore arrestano le ulcere dei peccati. Perciò il timore, sebbene amaro, è salutare. Noi dunque, che siamo ammalati, abbiamo bisogno di un Salvatore. Noi traviati abbiamo bisogno di uno che ci guidi. Ciechi, di uno che ci dia luce. Assetati, della fonte di acqua viva, chi berrà dalla quale non avrà più sete. Noi morti abbiamo bisogno della vita. Noi pecore, del pastore. Bambini, del pedagogo. Tutta l'umanità ha bisogno di Gesù, perché non avvenga che senza guida e in balia dei peccati cadiamo nella condanna finale. Bisogna invece che veniamo separati dalla pula e portati nel granaio del Padre. Il ventilabro, infatti, è nella mano del Signore e con esso separa il grano dalla pula che è destinata al fuoco. Ci è possibile, se lo volete, cogliere la sovrana sapienza del Santissimo Pastore e Pedagogo, l'onnipotente Logos del Padre, vedendo quel che egli dice allegoricamente quando presenta se stesso come pastore di pecore, cioè pedagogo di bambini. Dice per bocca di Ezechiele, rivolgendosi con fervore agli anziani e offrendo loro così un salutare esempio di intelligente sollecitudine: «Fascerò la pecora zoppicante, guarirò quella accasciata, ricondurrò quella smarrita, e io stesso le porterò al pascolo, verso il mio monte santo». Queste, dunque, sono le promesse del buon pastore. Sì, facci pascolare, noi bambini, come pecore. Riempici, Signore, con l'erba del tuo pascolo, che è la giustizia. Sì, o pedagogo, come pastore, guidaci verso il tuo monte santo che è la Chiesa, innalzata e svettante sopra le nubi e a contatto con i cieli. Sarò loro pastore, dice, sarò vicino ad essi, come la tunica è vicina alla pelle. Egli vuole infatti salvare la mia carne, avvolgendola nella tunica dell'incorruttibilità e ha unto la mia pelle. Mi chiameranno, dice, e io risponderò, eccomi. Mi hai risposto, o Signore, più rapidamente di quel che io mi aspettassi. Se passeranno attraverso, non scivoleranno, dice il Signore. Non cadremo nella corruzione, noi che stiamo passando per arrivare all'incorruttibilità. Egli stesso, infatti, ci sosterrà. L'ha detto e l'ha voluto. Tale, dunque, è il nostro pedagogo. Buono, ma con giustizia. Non sono venuto per essere servito, dice, ma per servire. Perciò nel Vangelo lo si presenta affaticato per il nostro bene e ha promesso di dare la sua vita in riscatto per molti. Egli dichiara che solo il pastore buono fa così. Munifico oltre misura, dona per noi la cosa più grande, cioè la sua stessa vita. Beneficante oltre misura e pieno di amore per l'uomo. Poteva essere Signore e invece ha voluto essere fratello degli uomini. Ha portato la sua bontà a tal punto da morire per noi. Ma contemporaneamente anche la sua giustizia gridava: Se verrete verso di me con rettitudine, anch'io sarò retto verso di voi. Ma se camminerete per vie tortuose, anch'io sarò tortuoso, dice il Signore degli eserciti, intendendo per vie tortuose le correzioni che dovranno subire i peccatori. La sua bontà, invece, è diritta e secondo natura. Vi allude la lettera iota del nome Gesù. È immutabile e incrollabile per coloro che hanno creduto in virtù dell'obbedienza. Io chiamavo, ma voi non mi prestavate ascolto. Trascuravate i miei consigli e non facevate attenzione ai miei rimproveri. Il rimprovero del Signore è quindi davvero assai vantaggioso. Anche per bocca di David egli dice a proposito di loro: generazione tortuosa ed esasperante, generazione che non ha il cuore retto e il cui spirito non è stato fedele a Dio. Non hanno custodito l'alleanza di Dio e non hanno voluto camminare nella sua legge. Ecco perché lo hanno esasperato, e quindi verrà il giudice a fare giustizia contro coloro che non vollero scegliere la vita buona. Per questo egli ha scelto di trattarli con ancor più rudezza, nell'intento di frenare il loro slancio verso la morte. Assai chiaramente, per mezzo di David, espone il motivo della sua minaccia. Non credettero nei suoi prodigi, ma quando egli li faceva perire, lo cercavano e si volgevano a lui e facevano veglie dinanzi a Dio. E si ricordavano che Dio è il loro aiuto e Dio è il loro sommo redentore. Dio vede quindi che essi si volgono a lui quando hanno paura, ma del suo amore non fanno alcun conto. Infatti, un bene che non cessa mai di beneficare è in generale più facilmente disprezzato, mentre è rispettato e venerato quel bene che ridesta la nostra memoria, suscitando in noi un timore della giustizia dettato dal suo amore per noi. Ora, il timore è di due specie. Uno è legato al rispetto, è quello che hanno i cittadini verso i governanti probi e noi verso Dio, come anche i bambini saggi nei confronti del loro padre. Come un cavallo non domato diventa ribelle, così un figlio lasciato a se stesso diventa sfrontato. L'altra specie di timore è invece legata all'odio, è quella che nutrono i servi verso i loro padroni difficili e che avevano anche gli ebrei, i quali non consideravano Dio come un padre, ma come un padrone. Credo che vi sia una grande differenza, sotto ogni aspetto, tra la devozione che è volontaria ed è frutto di un personale proposito e la devozione che procede da costrizione o necessità. Egli dice: «È misericordioso e guarirà i loro peccati e non li manderà in rovina. Continuerà a richiamare indietro la sua collera e non darà sfogo a tutta la sua ira». Vedi come viene qui messa in luce la giustizia del pedagogo nell'impartire castighi e allo stesso tempo la bontà di Dio nel concedere misericordia. Per questo David, ovvero lo Spirito per mezzo di lui, abbraccia questi due aspetti e, parlando del medesimo Dio, proclama nel Salmo: «Giustizia e giudizio sono le fondamenta del tuo trono. Clemenza e verità procedono dinanzi a te». Dichiara in tal modo che sia il fare giustizia che il concedere benefici appartengono alla stessa potenza. In entrambe queste azioni, infatti, si esprime l'autorità del giusto che discerne i contrari. Il medesimo Dio è sia giusto che buono, lui che è veramente Dio, lui che è tutto e tutto è lui, poiché egli è Dio, l'unico Dio. E come non è lo specchio che è cattivo nei confronti di un uomo brutto, dal momento che gli mostra ciò che egli è, e come non è il medico che è cattivo verso il malato se gli rivela che ha la febbre, non è infatti il medico che causa la febbre, ma è semplicemente colui che la denuncia, così colui che accusa l'anima ammorbata non è mosso da cattiva intenzione verso di essa. Non è lui infatti che immette i vizi, ma solamente mette in luce i peccati già presenti, allo scopo di allontanare simili abitudini negative. Perciò Dio è buono in se stesso, mentre è per noi che si fa giusto, proprio perché è buono. è fin dal principio, da quando è padre, che la sua giustizia ci viene mostrata per mezzo del suo Logos. Infatti, prima di essere creatore, era già Dio, era già buono, e proprio per questo volle essere creatore e padre. E quella stessa disposizione d'amore è il principio del suo essere giusto, tanto nel far risplendere il suo sole quanto nell'inviare sulla terra il suo figlio. Questi, per primo, annuncia la giustizia buona che viene dai cieli, dicendo: «Nessuno ha conosciuto il figlio se non il padre, e nessuno ha conosciuto il padre se non il figlio». Questa reciproca e uguale conoscenza è anch'essa un segno della giustizia iniziale. Poi la giustizia è scesa tra gli uomini con la lettera e con il corpo, cioè con la legge e poi con il Logos, per forzare l'umanità ad una salutare conversione, e fa ciò proprio in virtù della sua bontà. Ma tu non presti ascolto a Dio, perciò la colpa è tua, poiché sei tu stesso che attiri su di te la venuta del giudice. Il medesimo Dio, per mezzo del medesimo Logos, distoglie l'umanità dai peccati minacciandola e la salva incoraggiandola. Esortazione, lode e consiglio nella pedagogia divina. Abbiamo dunque dimostrato come la divina economia, che consiste nel rampognare l'umanità, economia buona e salutare, sia stata necessariamente adottata dal Logos in quanto adatta ad indurci alla conversione e a impedire i peccati. Ora ci rimane da considerare la dolcezza del Logos. Che egli sia giusto è infatti già stato illustrato. Ci offre i consigli della sua sapienza per incoraggiarci alla salvezza e vuole farci conoscere per mezzo di essi, come lo vorrebbe un padre, ciò che è bello e utile per noi. Osserva dunque: ciò che è bello è oggetto di encomio, mentre ciò che è utile è oggetto di consiglio. Ora, le forme del consiglio sono da una parte l'esortazione e dall'altra la dissuasione, così come anche l'encomio può essere o di lode o di sdegno. L'intelligenza che consiglia, se si pone in un certo modo, è esortativa, se invece si pone in un altro modo, è dissuasiva. Ugualmente anche l'encomio, esprimendosi in un modo biasima, in un altro loda. È secondo queste modalità che agisce soprattutto il giusto pedagogo, che si è proposto come scopo il nostro vantaggio. Quanto al genere del biasimo e della dissuasione, lo abbiamo già illustrato. Ora invece dobbiamo affrontare il genere dell'esortazione e della lode, al fine di equilibrare, per così dire, i due piatti della bilancia del giusto. Dell'esortazione a fare ciò che è vantaggioso il pedagogo si serve quando dice per bocca di Salomone: «O uomini, io vi chiamo e mando la mia voce dinanzi ai figli dell'uomo. Ascoltatemi, vi dirò cose importanti». E ciò che segue. In tal modo dà consigli salutari. Il consiglio infatti porta ad accogliere o a respingere. Anche per mezzo di Davide dice: «Beato l'uomo che non ha camminato nel consiglio degli empi e non ha preso la strada dei peccatori e non si è seduto al banco dei beffardi, bensì nella legge del Signore è posta la sua volontà». Ora, le forme del consiglio sono tre. La prima è quella che riprende gli esempi dei tempi passati, narrando quel che gli ebrei patirono quando adorarono il vitello d'oro, o che cosa patirono quando si prostituirono, o altre storie simili. La seconda forma prende in considerazione i tempi presenti, partendo da ciò che si percepisce con i sensi. È il caso di quel che fu risposto a coloro che interrogavano il Signore: «Sei tu il Cristo o dobbiamo attendere un altro?» Rispose: «Andate e dite a Giovanni: i ciechi vedono, i sordi odono, i lebbrosi sono guariti, i morti risorgono, beato colui che non si scandalizzerà di me». È questo che David aveva profetizzato dicendo: «Come abbiamo sentito dire, così abbiamo visto». La terza forma di consiglio è quella che concerne il futuro. Con essa egli ci spinge a fare attenzione alle conseguenze. È in questo senso che fu detto: «Coloro che caddero nei peccati saranno gettati nelle tenebre esteriori, dove sarà pianto e stridore di denti e altre espressioni simili. Da ciò risulta chiaro che il Signore ricorre ad ogni genere di cura per richiamare l'umanità alla salvezza. Con l'incoraggiamento egli seda i nostri peccati, diminuisce cioè i desideri e allo stesso tempo dà speranza per la salvezza. Dice infatti per bocca di Ezechiele: «Se vi convertirete con tutto il cuore e direte Padre, io vi ascolterò come un popolo santo». E ancora: «Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò». E le altre parole che il Signore stesso pronuncia personalmente. Assai chiaramente poi egli ci chiama alla bontà dicendo per mezzo di Salomone: «Beato l'uomo che ha trovato la sapienza, il mortale che ha trovato la prudenza. Infatti chi cerca trova ciò che è buono, e questo generalmente si lascia vedere da chi lo trova». Che cosa sia la prudenza lo spiega per bocca di Geremia: «Beati siamo noi, Israele, poiché ciò che è gradito a Dio è a noi noto». Infatti ci è reso noto per mezzo del Logos, in virtù del quale siamo beati e dotati di prudenza. Ora la conoscenza stessa è prudenza, come è detta per bocca del medesimo profeta. Ascolta, Israele, i precetti della vita, porgi l'orecchio a conoscere la prudenza. Ancora, tramite Mosè promette, in virtù del suo amore per l'uomo, un dono a coloro che zelano verso la salvezza. Vi condurrò verso la terra buona, che il Signore ha giurato ai vostri padri di darvi. E aggiunge per bocca di Isaia: vi condurrò verso il Monte Santo e vi riempirò di gioia. Beatitudine ed esortazione. Esiste poi un'altra forma della sua pedagogia, la beatitudine. Beato, dice per mezzo di David, colui che non commette peccato. Sarà come albero piantato lungo i corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non appassiranno. Questa è anche un'allusione alla resurrezione, e tutto ciò che farà avrà buon esito. Egli vuole che noi diventiamo così, allo scopo appunto di essere beati, cioè felici. Ma poi, sempre con l'intento di mostrare come la bilancia della giustizia sia pareggiata ed equilibrata, prosegue dicendo: «Non così gli empi, non così, ma come pula che il vento disperde dalla faccia della terra». Evidenziando in tal modo il castigo che spetta ai peccatori, la facilità con cui saranno spazzati via e la loro inconsistenza di fronte al soffiare del vento, il pedagogo ci distoglie dalla colpa per mezzo della pena e, minacciando il castigo meritato, ci mostra la bontà del suo agire. Ci chiama infatti con molta sapienza e abilità all'ottenimento e alla fruizione delle cose buone. E in vero anche alla conoscenza egli ci chiama quando dice per bocca di Geremia: «Se tu avessi camminato sulla strada di Dio, vivresti nella pace per sempre». Mostrando così la ricompensa della conoscenza, egli invita coloro che hanno intelligenza ad amare tale conoscenza e, concedendo il suo perdono a chi ha errato, dice: «Ritorna, ritorna, come il vendemmiatore torna al suo canestro. Vedi quanto è buona la giustizia che consiglia la conversione». È ancora per bocca di Geremia che egli illumina la verità davanti agli occhi degli erranti. Così dice il Signore: «Fermatevi sulle strade e guardate e informatevi sui sentieri eterni del Signore, quale sia il sentiero buono e seguitelo, e troverete purificazione per le vostre anime». È per salvarci che egli ci spinge alla conversione. Per questo dice: «Se ti convertirai, il Signore circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza». Avremmo potuto citare come nostri sostenitori in questo discorso i filosofi, che affermano che solo chi è perfetto è lodevole, mentre il malvagio è da biasimare. Ma poiché alcuni di loro denigrano l'essere beato ritenendo che esso non agisca nella realtà, né agendo in se stesso né intervenendo fuori di sé, poiché non comprendono il suo amore per l'uomo, a causa dunque di costoro e di quelli poi che non accettano la connessione tra il giusto e il buono, abbiamo lasciato perdere il riferimento ai filosofi. Avremmo infatti dovuto, in conseguenza, affermare che l'aspetto della sua pedagogia, che consiste nel rimproverare e biasimare, si addice bene agli uomini, visto che secondo questi filosofi tutti gli uomini sono malvagi, essendo Dio solo sapiente, dal quale deriva la sapienza, e lui solo perfetto e quindi anche lui solo degno di lode. Ma io non accolgo questo discorso. Dico piuttosto che la lode e il biasimo, e ciò che è loro simile, sono farmaci assolutamente necessari agli uomini, più di qualunque altro rimedio. Infatti, quelli che sono difficili da guarire vengono battuti e lavorati dalle minacce, dai rimproveri e dai castighi, come il ferro dal fuoco, dal martello e dall'incudine. Coloro invece che abbracciano spontaneamente la fede, come autodidatti e volontari, trarranno accrescimento dall'essere lodati. La virtù che viene lodata come albero si accresce. Mi pare che anche Pitagora di Samo abbia compreso ciò, poiché afferma: «Se hai compiuto atti malvagi, rimproverati. Se hai fatto cose buone, rallegrati». Ora, rimproverare si dice anche ammonire, e l'etimologia di ammonimento, nautetesis, è innesto, entematismos, nella mente, nous. Il rimprovero è cioè un atto che eleva la mente. Migliaia, in vero, sono le sentenze che furono inventate per esortare ad acquisire il bene e a fuggire il male. Gli empi, infatti, non avranno pace, dice il Signore. Per questo raccomanda ai piccoli, per bocca di Salomone, di fare attenzione. Figlio, non ti traggano in inganno i peccatori, non camminare per le strade con loro e non seguirli, se ti inviteranno dicendoti: «Vieni con noi, fatti complice del sangue innocente, nascondiamo sottoterra ingiustamente l'uomo giusto, facciamolo sparire ancora vivente, come fanno gli inferi». Quanto detto è anche una profezia della passione del Signore. Or dunque, anche per mezzo di Ezechiele, la vita ci dà i suoi precetti. L'anima peccatrice morirà, mentre l'uomo giusto, che fa giustizia, che non mangia sulle colline degli idoli, che non alza i suoi occhi verso le fantasie inventate dalla casa di Israele, che non contamina la donna del suo prossimo, che non si avvicina alla donna mestruata, che non opprime alcun uomo, che restituisce ciò che ha preso in prestito, che non compie rapina, che dà il suo pane all'affamato e riveste chi è ignudo, che non dà il suo denaro con usura e non ne trae interesse, che distoglie la sua mano dall'ingiustizia, che giudica con giustizia tra un uomo e il suo prossimo, che cammina nel sentiero dei miei comandi e custodisce le mie sentenze e le mette in pratica, costui è un giusto e avrà la vita, dice il Signore. Le parole citate delineano il modello di vita sociale per i cristiani e costituiscono un'ammirevole esortazione a una vita beata, al premio di una vita buona e alla vita eterna.